24, i gialli della storia. La commedia è il mezzo migliore per attaccare un regime totalitario. Era lo scontro del secolo. Un artista straordinario che si misurava con un orribile mostro. Con il grande dittatore mi faceva ridere, perché quando indossava l'uniforme se la lustrava, si lisciava la pancia piatta e si guardava sempre allo specchio per vedere che tutto fosse a posto. Nella vita non era affatto un uomo vanitoso. Se una scena non gli era piaciuta, papà la rifaceva anche 10 volte. Poi ci tornava su una settimana più tardi e la rifaceva di nuovo. Mentre Hitler si prepara a conquistare il mondo, Chaplin realizza uno dei suoi capolavori, Il grande dittatore, che mette in ridicolo quello spaventoso progetto di onnipotenza. Primavera del 1940, le truppe naziste invadono l'Europa e la persecuzione antigiudaica è già una tragica realtà. A Hollywood, Charlot interpreta il dittatore Adenoid Heinkel e un suo sosia, un anonimo barbiere ebreo, un'invenzione straordinaria, un'opera d'arte pacifista e antimilitarista che diventa una satira geniale del Terzo Reich. Oggi a Radio 24 scopriamo la genesi di un capolavoro, dalla sceneggiatura originale all'incredibile stesura del discorso finale, con testimonianze inedite e divertenti memorie. È la primavera del 1940. Sulle colline di Hollywood, Charlie Chaplin sta girando gli esterni del suo nuovo film, Il grande dittatore. Chaplin prova la scena del comizio tenuto da Adenoid Heinkel, il protagonista del film. Sidney Chaplin, fratello maggiore di Charlie, è andato a trovarlo sul set con una piccola cinepresa amatoriale da 16 mm con cui documenta la trasformazione di Chaplin in Adolf Hitler. Democrazia stonk. La democrazia fa schifo. Liberty stonk. La libertà fa schifo. Free spraken stonk. La libertà di parola fa schifo. Famiglia mit der Kreuzer Armee in der Welt. La Tomania è il più grande esercito del mondo. Der Kreuzer Navy in der Welt. La più grande marina del mondo. Wir sind ja der Kreuzer alles. Ma per restare grandi dobbiamo sacrificarci. Charlie Chaplin e Adolf Hitler non hanno in comune solo i baffetti. Anche se del tutto casuali, le analogie tra di loro sono sorprendenti. Entrambi nascono la stessa settimana, dello stesso mese, dello stesso anno. Hitler ormai è diventato il dittatore del Terzo Reich tedesco. I film di propaganda di Leni Riefenstahl lo presentano come il redentore della nazione. La sua supremazia è assoluta e la sua folle utopia della superiorità della razza ariana precipita il mondo intero nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi lo seguono ciecamente sulla strada che segnerà la loro rovina. Una coincidenza davvero straordinaria quella che lega Chaplin a Hitler attraverso la loro data di nascita. Un artista straordinario e un politico ambizioso, due vite, due destini antitetici. Come molti europei democratici, Chaplin vive drammaticamente l'ascesa del nazionalsocialismo, le leggi razziali, folli progetti di conquista del Führer. Studia contemporaneamente il suo modo di proporsi in pubblico, riuscendo a coglierne gli aspetti più ridicoli. Charles Spencer Chaplin nasce a Londra il 16 aprile del 1889 da due genitori artisti di varietà. Quando sua madre si ammala di mente, il piccolo Charles viene mandato in istituto. Già forte di qualche esperienza nello spettacolo, a 17 anni si unisce alla compagnia di Fred Carno. Nel 1910 parte con la troupe per una tournée negli Stati Uniti. I traumi della sua infanzia saranno in seguito lo spunto di partenza per uno dei classici del muto, il Monello. Nel 1916 Charlie Chaplin firma un contratto con la Mutual Film Corporation e diventa l'artista più pagato del mondo. Monaco, 1 agosto 1914. Sulla Odeonsplatz la folla esultante festeggia l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Un fotografo documenta la scena dalla Felder Rennal. In una delle sue fotografie compare un ragazzo che da Vienna si è trasferito recentemente a Monaco. Il suo nome è Adolf Hitler. Pur essendo riuscito a evitare il servizio militare nell'esercito austro-ungarico, durante la guerra Hitler si arruola volontario nell'esercito tedesco. Sotto le armi si dedica molto al disegno e progetta la facciata di un cinema per i soldati. La prima guerra mondiale di Charlie Chaplin invece si combatterà 25 anni dopo su un set di Hollywood. Le scene iniziali del grande dittatore saranno girate nel febbraio del 1940. Sul set anche il figlioletto Sidney. Papà faceva la parte di un omino che doveva tirare la cordicella di un cannone carico e fare fuoco. Era così buffo che sono scoppiato a ridere e ho rovinato la ripresa. Mio padre era contentissimo. Io pensavo che si sarebbe infuriato, che mi avrebbe detto «Questa tua risata mi costa una fortuna», e invece era felice. Eppure Chaplin avrebbe tutti i motivi per essere nervoso. Il grande dittatore è il progetto più costoso a cui abbia mai lavorato. Nel film interpreta un piccolo barbiere ebreo che durante la Prima Guerra Mondiale combatte nell'esercito dell'Ottomania, un paese immaginario, ma per una serie di equivoci tragicomici si ritrova sul fronte avversario. Il vero conflitto, invece, dal 1916 in poi, si trasforma in una guerra di trincea. Gli eserciti nemici ricorrono a nuove armi micidiali. Per la prima volta Germania, Francia e Gran Bretagna decidono di sperimentare i gas tossici. Negli anni della Prima Guerra Mondiale, Chaplin era diventato famoso in tutto il mondo. E anche se i tedeschi continuavano ad affondare convogli navali, i suoi film riuscivano comunque a circolare da un paese all'altro, come se esistessero delle navi speciali la cui unica missione era trasportare i suoi film in Europa. Chaplin è riuscito a evitare il servizio militare nella natia Inghilterra. Negli Stati Uniti, tuttavia, è attivissimo nella promozione dei buoni del tesoro. Con le sue esibizioni riesce a raccogliere ingenti somme di denaro per sostenere lo sforzo bellico americano. Nel 1919, insieme a Douglas Fairbanks, Mary Pickford e David Griffith, Chaplin fonda la United Artists. Questo gli consentirà di avere il controllo artistico totale sul suo lavoro. Stavo vedendo un cinegiornale muto su Hitler. Ricordo di aver pensato... Quest'uomo è assolutamente ridicolo. Se Chaplin interpretasse un personaggio del genere, farebbe esattamente lo stesso effetto. Hitler è arrivato al potere poco alla volta, grazie alla sua straordinaria retorica. Il suo pubblico era sempre più entusiasta, perché lui stesso si perfezionava di volta in volta. Per ottenere questo effetto, si era dato molto da fare. Aveva perfino preso delle lezioni di recitazione. La retorica di Hitler ispira Chaplin e gli suggerisce una delle scene più celebri di Il grande dittatore, quella in cui il barbiere ebreo, che dalla fine della guerra è ricoverato in ospedale, ascolta alla radio il discorso di Adenoid Enkel, nuovo dittatore della Tomania. Enough! Die Welt stolz mit seinen Helden sagt! Ah, und die Aryan... Papà era un imitatore straordinario. Riusciva a rifare qualsiasi lingua, gli bastava imitarne il suono. Su Hollywood Boulevard c'era un cinema dove proiettavano cinegiornali, solo quelli, e mio padre li adorava. Invece di andare a vedere un film scadente, ce ne andavamo lì a vedere un'ora e mezza, due ore di cinegiornali. Chaplin ritiene Hitler uno dei più grandi attori di tutti i tempi. In Il grande dittatore, ad interpretare Hannah, la fidanzata del barbiere, è Paulette Goddard, all'epoca moglie di Chaplin e per metà ebrea. Quella sono io. Ma come ha fatto? I tedeschi diffondono la voce che anche Chaplin sia ebreo e boicottano il film. Lui, da parte sua, non smentisce. Charlie Chaplin è già un divo di fama internazionale e nonostante non sia ben visto in Germania, decide di visitare Berlino. È l'autunno del 1931. Nel 1931 Charlie Chaplin visita Berlino. Ad accoglierlo una folla entusiasta. La stampa nazista è indignata. «Tutto questo clamore per il buffone ebreo del cinema», scrivono i giornali, «è semplicemente disgustoso». Tutti noi eravamo convinti che Chaplin fosse ebreo, ne eravamo certi. E ovviamente ne eravamo molto dispiaciuti, perché sapevamo anche che non avrebbe mai potuto amarci e che era un uomo dall'ascendente fortissimo. Nel libro Gli ebrei ti guardano, un concentrato di propaganda antisemita, Chaplin viene definito un piccolo e disgustoso acrobata ebreo. Un amico gliene invia una copia a Hollywood. È probabile che sia proprio questo episodio a spingere Chaplin a prendersi la sua rivincita su Hitler. Di sicuro, comunque, le immagini del primo boicottaggio antiebraico del 1933 a Berlino gli ispirano una delle scene più belle di Il grande dittatore. Nel 1929 l'America ha dovuto affrontare una crisi economica senza precedenti che ha profondamente modificato lo stato sociale. In questa complessa situazione anche il Partito Nazionalsocialista raccoglie negli Stati Uniti inaspettati consensi e si fa strada anche l'antisemitismo. Ottobre 1929. Con il crollo di Wall Street l'America piomba nella crisi. Gli scioperi sono all'ordine del giorno e la polizia carica violentemente i dimostranti. In quelle settimane Chaplin sta lavorando alacremente al suo nuovo film, una satira sulle condizioni dell'America dopo il crack. Tempi moderni esce nel 1936. Il sonoro è ormai una realtà già consolidata, ciò nonostante la critica accoglie con entusiasmo il nuovo muto di Chaplin. Quando ho visto per la prima volta Tempi moderni, mi è sembrato il film più bello che avessi mai visto. E in un certo senso lo giudico ancora tale per la critica al capitalismo, non solo dal punto di vista economico e sociale, ma anche da un punto di vista profondamente umano. Chaplin parla di gente che diventa prigioniera della meccanizzazione perché non può più farne a meno. È il film dove a un certo punto da un camion cade una bandiera rossa e mentre lui cammina lungo la strada da dietro inizia ad avanzare un corteo dei manifestanti. Poi arrivano i poliziotti e li caricano. Tempi moderni è il film che costerà a Chaplin l'accusa di essere comunista. L'FBI stila un rapporto dettagliato sui suoi presunti contatti con i comunisti. Amareggiato dalle calunnie, nel 1952 il cineasta lascerà l'America. Ma a metà degli anni 30 la situazione è molto diversa. La Grande Depressione infatti spinge molti americani verso le organizzazioni più radicali. Stava montando un sentimento rivoluzionario. Persone che fino ad allora erano state rispettabili e benestanti si trovavano a fare irruzione nei forni per rubare il pane. Tutto era portato all'estremo. In Germania, il ministro per la propaganda Joseph Goebbels progetta di vietare tutti i film che arrivano da Hollywood, pericolosi per l'ideologia nazista, ma molto amati dal pubblico tedesco. Hitler stesso è uno spettatore appassionato e attento. Nella sua sala di proiezione privata guarda tutte le commedie hollywoodiane e in base ai suoi commenti vengono scelte le pellicole che possono uscire nelle sale cinematografiche. Il 12 marzo del 38 i nazisti invadono l'Austria. Mentre le grandi potenze europee sperano ancora di riuscire a contenere l'espansionismo tedesco, nell'ottobre 1938 Chaplin annuncia l'inizio della produzione del suo nuovo film. Il console tedesco manifesta il suo disappunto all'Associazione Americana dei Produttori e minaccia di passare alle vie di fatto. Il governo inglese dichiara che per rispetto al cancelliere tedesco nel Regno Unito il film sarà vietato, ma Chaplin non demorde. Tutti i miei amici, molti dei quali ebrei come me, sentivano che era nato un Davide comico che avrebbe combattuto Golia. E non potevamo che esserne felici. A Hollywood l'industria del cinema è nervosa. I produttori non sanno se alimentare lo sdegno contro il nazismo o gettare acqua sul fuoco. Dan James, assistente alla regia di Chaplin, ricorda: tra i produttori ebrei di Hollywood c'era stata una grossa mobilitazione per scoraggiare Chaplin a realizzare Il grande dittatore. In molti erano andati da lui a dirgli: «Senti Charlie, se fai questo film, la nostra gente se la vedrà brutta da quelle parti. Hitler si infurierà». E Charlie rispondeva: «Non me ne frega niente se si infuria, non potrà certo essere peggio di quello che già è». In realtà Chaplin temeva che gli avrebbero boicottato la distribuzione. Gli dicevano: «Charlie, è un disastro, non tanto per gli ebrei, quanto per la politica estera americana». Charlie iniziava ad essere molto preoccupato. Lo stesso Roosevelt, quando lo venne a sapere, gli mandò sotto Harry Hopkins, uno dei suoi consiglieri. Hopkins gli disse: «Senti, Charlie, il presidente è entusiasta del progetto. Non devi preoccuparti per la distribuzione. Il film verrà distribuito. Il presidente pensa che sia un progetto molto importante e che tu debba andare avanti, senza dar retta a tutti quelli che tentano di scoraggiarti. Estate del 39, mentre la Germania è pronta a entrare in guerra, Chaplin scrive gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura del Grande Dittatore. La tragica realtà europea offre spunti per creare nuove scene che mettono in ridicolo il Führer. L'ironia sottile e geniale del regista non risparmia neanche il dittatore italiano Benito Mussolini, che Chaplin ha studiato in decine di cinegiornali. Uno dei momenti più importanti della lavorazione fu l'assegnazione della parte di Mussolini a Jack Hockey. Avete visto, il popolo era proprio entusiasta al vostro arrivo. Certo, gli piacciono le facce nuove. A un certo punto Jack Hockey esce sul balcone tutto impettito e col mento in fuori. Sembrava proprio Mussolini. Da parte di Chaplin è stato un colpo da maestro affidargli quella parte. L'inizio della lavorazione del Grande Dittatore è previsto per i primi di settembre del 1939. I caricaturisti hanno già cominciato a immaginare la reazione nazista al film. Chaplin diffonde la notizia di voler tenere la prima a Berlino, alla presenza di Hitler. Ma l'orrore della realtà finisce per soffocare la macchina promozionale del film. Il 1 settembre 1939 la Wehrmacht invade la Polonia e marcia su Varsavia. Il dittatore fa strada. Il 9 settembre, la lavorazione di Il Grande Dittatore inizia nel più assoluto riserbo. Dietro la macchina da presa, Chaplin è un perfezionista. Raramente il risultato lo soddisfa. Per giunta, tutti sanno quanto sia irascibile. Le scene vengono ripetute finché anche il minimo dettaglio non è perfetto. Ma il suo genio comico resta ineguagliato. Dicembre 1939. Chaplin inizia le riprese degli interni. Quando compare sul set per la prima volta con indosso l'uniforme da dittatore, ai suoi collaboratori appare distaccato, più brusco del solito. Anche sua cugina Betty, giunta in America a bordo di una delle ultime navi passeggeri in partenza dall'Europa, nota il cambiamento. Charlie riusciva sempre a separare il piccolo uomo, come amava definire il suo personaggio, dalla sua quotidianità. Di persona era completamente diverso dai personaggi che interpretava sullo schermo, ma con Il Grande Dittatore era diventato molto più altezzoso. Mi faceva ridere perché quando indossava l'uniforme se la lustrava, si lisciava la pancia piatta e si guardava sempre allo specchio per vedere che tutto fosse a posto. Nella vita non era affatto un uomo vanitoso, invece durante le riprese di quel film lo era diventato. Si sentiva molto altezzoso, regale. Per tutto il periodo in cui ha vestito quei panni è stato una persona diversa. I grandi progetti architettonici di Albert Speer per la cancelleria di Hitler superano di molto l'immaginazione di Chaplin e la disponibilità di risorse della fabbrica dei sogni di Hollywood. Ma mentre è intento a studiare le fotografie del Führer, Chaplin resta colpito da un particolare, il mappamondo dietro la sua scrivania. È la genesi di una delle scene più famose della storia del cinema. La scena in cui Chaplin tira in aria il mappamondo a forma di palloncino è un vero capolavoro di inventiva e ironia. Diventerà uno dei momenti più alti della cinematografia di tutti i tempi, ma è anche una tragica metafora della realtà europea. Il destino di milioni di persone è nelle mani di Hitler. Le truppe naziste, infatti, invadono il Belgio e l'Olanda e dopo poche settimane capitola anche la Francia. Chaplin ha persino pensato di accantonare il progetto del film. La guerra di Hitler è così sconvolgente da cancellare l'ironia di Charlot e del suo dittatore. Quest'uomo è una terribile minaccia per la civiltà, non è qualcuno di cui ridere. Chaplin decide di finire il suo film. Prova a immaginare qualcosa di dirompente per la scena finale, immagina molte soluzioni, infine l'idea vincente. Il monologo che chiude il film parla di pace, di uguaglianza e di libertà. Il dittatore e il barbiere ebreo non esistono più. Davanti ai microfoni c'è solo un artista ebreo coraggioso e geniale, Charlie Chaplin. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette, Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve umanità. Accende una lanterna e la tiene da parte, mentre l'umanità continua ad autodistruggersi e la lascia lì finché, quando la guerra è finita, la lanterna si riaccende e torna a darci speranza per il futuro. Dopo 559 giorni di lavorazione, il 15 ottobre del 40, il grande dittatore è pronto per le sale. Il film debutta a New York in due sale. È subito un successo clamoroso, oltre che uno straordinario strumento di propaganda contro il Reich nazista. A Londra la prima del film si tiene nei giorni più duri dei bombardamenti tedeschi sulla città. La critica lo accoglie entusiasta. Un quotidiano lo definisce il miglior film di propaganda da quando è scoppiata la guerra. Contrariamente alle aspettative, per Chaplin il grande dittatore diventa il suo maggior successo al botteghino. In Germania il film e il suo successo all'estero vengono subito nascosti dalla macchina della propaganda di Goebbels. Ma a quanto si dice, sia il ministro che il feldmaresciallo Göring hanno visto il film in privato. È certo in ogni modo che a Berlino ce ne fosse una copia. Nulla comunque è trapelato su quale sia stata la loro reazione. I nazisti innescano una campagna internazionale per proibire il film, ottenendo che la pellicola venga bandita in Sud America e, a sorpresa, in Irlanda. Ovviamente la distribuzione del grande dittatore viene vietata nei territori occupati dai nazisti, eppure risulterebbe che sia avvenuta un'unica proiezione in un cinema militare tedesco. Nel 1942 una copia proveniente dalla Grecia si ritrova nella Belgrado occupata. I partigiani jugoslavi riconoscono la potenza esplosiva di quei rulli vagabondi. Un giorno i partigiani riescono a sostituire il film in programma per i soldati con la copia clandestina di Il grande dittatore. All'inizio della proiezione nessuno capiva che cosa stesse accadendo. Ma dopo i primi 40-45 minuti di proiezione, uno delle SS sparò un colpo in aria e tutti si precipitarono fuori dal cinema. Non volevano avere niente che fosse contro Hitler. Il 2 maggio del 45 i sovietici entrano a Berlino. La città è solo un cumulo di macerie. Dopo la morte di Hitler, anche il bunker della cancelleria è in rovina. L'unico oggetto che i soldati trovano intatto è il grande mappamondo che era stato spesso fotografato in immagini ufficiali e che profeticamente Chaplin aveva fatto diventare il simbolo stesso della follia del Führer. Del capolavoro di Chaplin rimane profetico il commento dello scrittore Ray Bradbury, autore di Fahrenheit 451. Per me il grande dittatore resta uno dei film più belli che abbia mai visto. Quando ti trovi di fronte a dei regimi totalitari, con tutta la follia che infliggono al mondo, non importa quanto coraggio hai, devi essere capace di riderli in faccia, di usare la testa e dire: voi non contate niente e in questo modo io vi ignoro. Vi dedico la risata più fragorosa che ci sia, una risata che vi seppellirà. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.